30 dicembre 2011 sto seduto accanto a Malik, uno dei fondatori di questa organizzazione che si chiama Occupy the Hood. Prima procederò con le domande in inglese e poi traducerò dopo che lui risponde. Raccontaci di come si è formato il vostro gruppo. I came down to Zuccotti Park week 2. Allora, com'è che si è formato il gruppo? In pratica lui è andato a Zuccotti Park per riunirsi alla protesta e ha notato subito che era pieno di gente bianca, non c'era nessuno di colore, allora tramite Twitter e altri tipi di connessioni tramite internet ha chiamato altri a unirsi con lui e a fondare qualcosa che facesse vedere la presenza anche di altra gente nel movimento per evitare la polarizzazione. Quanta gente è coinvolta approssimativamente adesso? Il dice che il gruppo si è allargato, adesso c'è una presenza in 20 stati diversi e è una cosa incredibile, cioè proprio ha avuto un'espansione tremenda in brevissimo tempo. Premette che non se l'aspettava e che veramente è sempre sorpreso ogni qualvolta riceve una telefonata da gente che vuole sapere se possono organizzare un Occupy the Hood in questo o quell'altro stato. Dice che la cosa che veramente prende di più la gente, che ha pigliato di più, è il fatto che sono cose concrete, tangibili, che si fanno per il proprio quartiere, ed è basato proprio su questa presenza di quartiere connessa ai bisogni quotidiani della gente. How does the group now... Come vi relazionate con il movimento di Occupy Wall Street? How we relate? I'm very involved in OWS as of late. Allora, dice che è molto coinvolto con Occupy Wall Street. Originariamente nemmeno ci pensava di fare l'attivista e di organizzare movimenti come adesso è coinvolto, però in passato ha una storia di azioni e di coinvolgimento in proteste a favore della liberazione di Mumia Abu Jamal, quindi non è la prima volta che si coinvolge, non è completamente la prima volta che si coinvolge in certe questioni. Per quanto riguarda relazionarsi con Occupy Wall Street, allora è molto coinvolto direttamente quasi dall'inizio, come aveva detto prima, però sta cercando di spostare il movimento in una direzione diversa. E questo comporta anche conflitti con certa gente, ma anche molto supporto che ha riscontrato tra vari esponenti di questo movimento. Però ci sono anche delle difficoltà che sta affrontando da quando lui e la cofondatrice Ife sono apparsi sulla copertina di Time, che è una rivista di spicco settimanale tipo l'Espresso sarebbe in Italia, e questo comporta altri impegni che lo toglie un pochettino anche dalla scena in cui vorrebbe essere molto più presente. Ma ci sono anche delle altre questioni che c'è molto bisogno di affrontare e che in pratica anima la sua attività nell'Occupy Wall Street come movimento. Il problema che lui vede è che Occupy Wall Street, dato che è sempre stato incentrato, è stato incentrato all'occupazione di Wall Street, del parco Zuccotti, azioni del genere, lui si è reso, anche altri si sono ovviamente resi conto abbastanza presto, che intanto Wall Street continua a funzionare nonostante le azioni dei manifestanti a Wall Street. Allora perché avere soltanto una presenza là, e intanto si rendono conto quelli di Occupy the Hood, ma anche molti a Occupy Wall Street, che le proteste contro Wall Street non possono limitarsi soltanto a Wall Street stesso, ma anche a tutto un sistema intero. E quello che Occupy the Hood vuole portare avanti è un discorso in cui la gente cerca di fare delle azioni che si colleghino con parti della società che sono le più oppresse, sia bianche che nere. Cioè, questo è una cosa che sottolinea Malik, e questo vuol dire anche una presenza organizzativa un pochettino più capillare, diciamo, e comporta creare, organizzarsi, creare azioni a livello di quartiere, come ne diceva prima. E in questo paese, infatti negli Stati Uniti, purtroppo si ha questa tendenza a fissarsi su parti di un sistema, ma non il sistema nel suo insieme. E per esempio quello che loro in particolare, l'Occupy the Hood, vogliono che si capisca è che bisogna aiutare specialmente la gente, che è prevalentemente di colore, ma anche bianca, che perde la casa a causa della speculazione, che è ficcata in carcere e in un sistema industriale carcerario, come si suol dire da queste parti, e bisogna partire proprio da queste realtà per organizzare una protesta e per avviare, si spera, un cambiamento sociale assolutamente necessario a questo punto. What are the main distinguishing characteristics? I mean, Occupy Wall Street obviously has got a variety of different politics. Che cosa distingue il movimento Occupy the Hood, oltre a quello che hai già menzionato, a quello di Occupy Wall Street? Well, I put my sign down week one. Okay. I wasn't for the marching. Dice che c'è molto da fare, molte ferite storiche da guarire ancora, e ha smesso dopo una settimana di esporre i cartelli di protesta e di partecipare soltanto alle manifestazioni. L'organizzazione di Occupy the Hood sono tutti di colore, e molto più coinvolti nei propri quartieri, e a cercare di portare avanti un discorso di cambiamento tramite la prassi. Enfatizzano il problema del razzismo e dei privilegi sociali per le bianche e i bianchi. E infatti Occupy the Hood è stato il primo gruppo a portare le questioni di razzismo, specialmente a Occupy Wall Street, alle volte anche dovendo urlare e protestare contro i manifestanti stessi. C'è stato anche un caso a Filadelfia, per esempio, in cui ci sono state delle tensioni all'interno di Occupy Filadelfia, ma anche Occupy Wall Street. E così il gruppo sta facendo sia amici che nemici all'interno di Occupy Wall Street, però c'è anche da dire che sono, come per ribadire, seguendo il discorso di prima, che Occupy the Hood, i membri di Occupy the Hood sono anche coinvolti, specialmente Malik e Ife, direttamente nel movimento di Occupy Wall Street, principalmente facendo parte del People of Color Working Group, che sarebbe un gruppo all'interno di Occupy Wall Street, che è fatto di persone di colore, che vogliono, tramite questa organizzazione interna, di portare avanti un discorso diverso che sensibilizza la maggioranza bianca a questioni che di solito vengono ignorate, purtroppo, e tuttora. Le questioni del razzismo, la questione del razzismo ha ovviamente una storia molto lunga negli Stati Uniti, dal colonialismo britannico fino ad oggi, e quindi Occupy Wall Street non può cancellare le questioni storiche e anche odierne del razzismo, solo perché ora finalmente le comunità bianche si svegliano politicamente a dei fatti che hanno colpito le comunità di colore in tempi recenti, come l'incarcerazione di massa, specie per afroamericani, e la repressione poliziesca nei quartieri, che è una quotidianità, è una cosa allucinante nei grandi centri, nei metropolitani statunitensi. E questo, cioè, queste questioni non sono soltanto recenti, ma anche in varie forme, problemi secolari che ancora non sono risolti. Dice Mali che hanno pure coinvolto nel movimento ex membri di bande cosiddette criminali, più o meno, che sono abbastanza violente, e anche ex carcerati recentemente, cioè carcerati recentemente liberati, il che è un'altra cosa che distingue nettamente Occupy the Hood da Occupy Wall Street. Queste sono le questioni politiche principali che distinguono i due raggruppamenti, e comunque c'è un avvicinamento grazie appunto al continuo coinvolgimento di membri di Occupy the Hood nel movimento di Occupy Wall Street. C'è anche la questione della politica elettorale, con membri di partiti che si interessano al movimento in generale, oppure anche a Occupy the Hood stesso. E per Occupy the Hood non è una questione da liquidare, un possibile allacciamento alla politica istituzionale, ma i politici e le politiche innanzitutto devono dimostrare di battersi e di ottenere risultati concreti per i quartieri più poveri, se no non ne vogliono proprio avere niente a che fare. E ci sono tantissimi esempi in passato da cui si può anche rilevare delle lezioni storiche, e non vogliono ripetere una omologazione del loro movimento nelle istituzioni politiche di governo. Sovente comunque gli viene chiesto a Malik stesso cosa ne pensa di Obama, e qui bisogna stare molto attenti. Il fatto che adesso ha tanta attenzione mediatica rende sia Malik che Ife molto più ricercati per quanto riguarda opinioni politiche. Bisogna stare attenti, bisogna barcamenarsi molto, molto attentamente, perché sebbene sono molto critici di Obama, non vogliono lasciarsi strumentalizzare da forze politiche che vogliono dividere la comunità afroamericana, e quindi quandunque viene chiesta una opinione su Obama, si dichiarano critici verso tanti altri nel mondo della politica istituzionale, e invece cercano al meglio di puntare il dito al sistema capitalistico nel suo complesso, magari non dicendo sistema capitalistico, ma si può intendere. Dice pure che non abbiamo il lusso in questo paese di parlare in modo critico di persone che ci assomigliano, anche se il problema è grave per quanto riguarda autorità politiche e anche attivisti nel mondo della comunità afroamericana e oltre, che non combinano un granché per le proprie comunità, e questo coinvolge anche la gestione dei fondi. Infatti addirittura Occupy the Hood già ne riceve di donazioni, ma tutti i fondi vengono usati a scopi tipo la lotta per scarcerare prigioniere e prigionieri politiche e politici, oltre a cercare di avviare dei progetti di miglioramento per i quartieri più repressi e economicamente depressi, a New York per esempio, e in altre città pure. Now, I guess the group is doing a lot of work against the prison industrial complex as well, as part of, of everything else. I would say that we proseguendo con il discorso del coinvolgimento di Occupy the Hood con la lotta per riformare, se non abolire, le carceri. Infatti parte della lotta portata avanti dal gruppo è per la liberazione di prigioniere e prigionieri politiche e politici, per tradurre quello che ci dice Malik. Abbiamo formato un gruppo all'interno di Occupy Wall Street che si chiama Prison Industrial Complex Working Group, cioè un comitato dedicato alla lotta contro il complesso industriale carcerario, di cui fanno parte anche membri dell'RCP, il Revolutionary Communist Party, cioè il Partito Rivoluzionario Comunista, che si batte come il gruppo per queste cose. Non vuole dare però l'impressione di far parte di chissà quale enorme movimento di massa. Dice che facciamo quello che possiamo per dare una mano a qualsiasi organizzazione che si batte per la liberazione la scarcerazione di prigioniere e prigionieri politici e politici, ma anche per aiutare i carcerati a sopravvivere anche il carcere. Malik dice che il suo coinvolgimento nella lotta per almeno migliorare le condizioni delle carceri statunitensi è connesso con le esperienze della sua famiglia in maniera abbastanza diretta. Certi membri della sua famiglia infatti sono incarcerati e secondo lui certi giustamente e certi certamente no. Comunque sia, i loro diritti vengono calpestati nel carcere in maniera paurosa e continua, come immagino ben sappiate, almeno per coloro che ascoltano la radio e il programma La Conta. Non dovrebbe essere una notizia molto nuova. Certi di questi membri di famiglia sono anche non troppo distanti da lui, quindi per lui in pratica si tratta di una lotta anche personale contro il sistema. Ironicamente, come dice, uno dei cambiamenti notevoli che ha notato nelle carceri è il mutamento di spietatissimi, alle volte razzisti, razziste bianche e bianche, che poi cominciano a cambiare la loro prospettiva e diventano addirittura antirazziste o antirazzisti. E questo dà anche speranza che coloro che sono diciamo immersi in questa società razzista, quale tale sia gli Stati Uniti e altri paesi, può comunque cambiare in una maniera o l'altra, sperando non tramite il carcere ovviamente. Però una cosa che constata Malik è che per esempio in una zona dove, in un paese dove viveva tempo fa, si chiama la Contea Cobb nella Georgia, constata infatti che ha un tasso di incarcerazione del 99% o anche di più, in una comunità prevalentemente afroamericana, dove addirittura impiegano forza lavoro immigrata a basso costo per stipendi irrisori, addirittura si tratterebbe anche di lavori forzati, in un modo o nell'altro, in maniera informale, per costruire le carceri dove si sbattono per la maggior parte afroamericani, e queste carceri sono solamente gestite da enti privati, quindi per lui in grande contrasto alla maggioranza di quelli che sono coinvolti nel movimento di Occupy Wall Street, lui ha un'esperienza diretta per quanto riguarda il collegamento intimo tra l'alta finanza, la speculazione edilizia e il carcere, ma anche con la struttura, le tattiche, le strategie dei corpi di polizia. Infatti suo padre è un ex poliziotto, così Malik ha il vantaggio di saperne molto sul comportamento della polizia e sulle modalità di repressione, ma anche per autodifesa, perché quandunque lui deve affrontare per esempio la polizia, lui sa esattamente come agire. Questo è molto vantaggioso per uno che è così coinvolto nel movimento. Ora, date tutte queste esperienze, anche le sue letture e i suoi dialoghi con vari raggruppamenti anche di Occupy Wall Street, ma anche decenni di coinvolgimento nella lotta per liberare Mumia Abu Jamal, per esempio. Lui connette la disfunzione, come fanno anche altri, la disfunzione delle istituzioni educative negli Stati Uniti all'incarcerazione di massa, prevalentemente a scapito delle comunità di colore, nel senso che vi è come un canale diretto dalla scuola alle prigioni. Poi le scuole, dato che io vivo negli Stati Uniti, posso anche testimoniare questo direttamente, molte volte le scuole sembrano addirittura anche delle prigioni e gestite anche come tali. Comunque c'è questo canale diretto dalle scuole alle prigioni nei quartieri specialmente più poveri e specie di colore. Per dare un pochettino una panoramica contestuale di come viene gestito il sistema educativo negli Stati Uniti, le scuole non prendono i fondi direttamente dallo Stato federale, anche se possono attingere ai fondi federali se fanno domanda per questi, ma la stragrande maggior parte dei fondi per gestire le scuole proviene dalle tasse sulla proprietà, e quindi le tasse sulla proprietà sono abbastanza alte. Però quando si tratta di una comunità che è economicamente svantaggiata o disastrata, come la maggior parte delle comunità di colore, allora le scuole ne risentono subito, e allora diventa veramente quasi ingestibile la situazione, e si creano situazioni di tal disagio che letteralmente la decisione per un ragazzo o una ragazza è di o andare a spacciare droga o a trovarsi il modo di andare ad arruolarsi nelle forze armate o magari nelle forze di polizia. Così diventa in pratica un circolo vizioso in cui è difficile fuoriuscirne. E Malik rincara ancora un pochettino di più la dose, secondo me giustamente, per illustrare l'enorme distacco tra le realtà di certe comunità bianche, quelle anche in diversi movimenti che si battono per certi diritti, cioè questo enorme distacco tra queste comunità bianche, non tutte ovviamente, e quelle di colore. Citando l'esempio di Bob Barker, per esempio. Bob Barker è uno molto famoso presentatore televisivo in programmi di varietà vari, adesso mi ricordo esattamente quali, lo vedevo anch'io in TV negli anni 80. Ebbene, Bob Barker è tra gli esponenti maggiori per i diritti animali, ma allo stesso tempo è uno che trae lauti profitti dal sistema carcerario come investitore nelle carceri statunitensi private. E quindi c'è proprio questo questo divario, questa distanza anche nelle esperienze tra le varie comunità, che rende abbastanza difficile anche certe volte anche entrare in dialogo con diversi raggruppamenti all'interno stesso di Occupy Wall Street e tra varie comunità oltre a quelle di New York, che sono coinvolte pure, che si sono ispirate a questo movimento contro il settore finanziario statunitense. Given the kind of work that you've been doing, and obviously you've got quite a bit of experience from what it sounds, what kind of strategies have you found to be more effective at achieving particular ends? I noticed becoming more insular and kind of works against the system. Mm-hmm. Where, for example, the Amish. Mm-hmm. The Amish are not protesting. Yeah. The Amish are not crying about the prison industrial complex because they're insular. They feed themselves, they house themselves, they clothe themselves, they do everything for themselves. So I'm a firm believer in this. They're very calm people. Mm-hmm. But I think if you try to stop their way of living, this is not new. Allora, per le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa che ovviamente partecipano in movimenti e lotte, ho chiesto a Malik se potrebbe indicare delle strategie in base alle sue esperienze, strategie antisistemiche che hanno ottenuto risultati positivi, anche se in breve termine, magari non a lungo termine. Così ci possono essere magari degli spunti di paragone che potrebbero essere interessanti. Allora lui mi rispose che ci sono diversi modi che esistono negli Stati Uniti storicamente per resistere, ma di solito sono provinciali o isolati. Per esempio le comunità Amish, che si autogestiscono, producono in proprio, dispongono di terreni, case, si producono anche i propri vestiti e hanno vite in pratica parallele al sistema, ma relativamente indipendenti. Infatti non hanno problemi relativi al complesso industriale carcerario, non si mobilitano per manifestare contro questo o quest'altro sopruso a livello istituzionale o sistemico. Personalmente lui crede che, cioè Mali crede che sia importante creare questo tipo di indipendenza, sebbene relativa, questo tipo di, in pratica, di autogestione, come penso sia direbbe in Italia. E le comunità Amish tendono ad essere tranquille, ma come dice, se il governo decidesse un giorno di mettere fine a questa relativa indipendenza, penso che scaturirebbero dei seri problemi, tipo rivolte da sedare, eccetera. E crede che il paese lo capisca bene, anzi, forse anche troppo bene in certi aspetti, in certi risvolti. Comunque, per continuare a tradurre quello che racconta Malik, tanti e tanti nel movimento adesso, non soltanto Occupy Wall Street, focalizzano i propri sforzi verso il cambiamento di governo, come anche in Italia c'è da aggiungere inoltre, ma lui non ha alcun problema riguardo voltare le spalle verso la politica istituzionale. E questo è il tipo di discorso che sta cercando di promuovere all'interno del movimento e anche al di fuori. In pratica quello che sostiene è che bisognerebbe spartire le risorse a nostra disposizione invece di scambiare denaro, per esempio, o invece di dipendere dallo scambio di moneta. Questo riguarda anche le lotte per mettere fine all'incarcerazione di massa. C'è per esempio una iniziativa che si chiama Copwatch. Copwatch vuol dire sorveglianza della polizia, in cui si segue la polizia dovunque vada nei quartieri, specialmente i quartieri più abusati dalle forze di polizia, e si segue la polizia muniti di cellulari con fotocamera. Un suo amico, Jaziri X, ha addirittura composto una canzone intitolata Film the Police, cioè Riprendi la polizia, che si ispira al numero di NWA Fuck the Police, cioè Fotti la polizia. E questo l'ha dedicato anche al movimento, è un numero abbastanza simpatico. Se possibile vedrete anche un indirizzo elettronico per raggiungere il sito YouTube dove riprendono il video fatto appositamente da Jaziri X e compagni. Comunque è molto più efficace filmare che sparare alla polizia. Per donare a comunità isolate come quella Amish, lui trae un esempio da loro, dalle loro strutture, le loro attività, nel senso di creare un contesto di famiglia, di cercare di creare un tipo di relazione tra la gente dentro il movimento, tipo quello che faceva anche il partito delle Pantere Nere, a cui tornerò tra poco, dove tutte e tutti spartiscono le risorse che possono e anche i propri problemi, così si trovano punti in comune che possono aiutare a superare preconcetti e pregiudizi. Così sarebbe possibile vedere oltre le provincialità di tutte e tutti e capire che la questione principale è che ci stanno fottendo, cioè in generale. Le differenze si possono affrontare dopo. Lui propende per l'azione e agire ora contro un nemico comune, senza dimenticarsi ovviamente delle differenze, delle diseguaglianze all'interno del movimento, che sono abbastanza difficili, e anche ci sono dei divari veramente grandi, non solo ovviamente economici ma anche di comunicazione. Però non dice che bisogna ricorrere alla violenza necessariamente. Però se comincia, cioè, se cominciano a picchiare, se comincia ad agire con pestaggi, bisogna anche mostrare la massima fermezza e difendersi in qualche modo. Per adesso la polizia non ha arrestato nessuno dei membri di Occupy the Hood. C'è gente che si chiede perché. Si chiede anche perché così poche persone di colore si uniscono alle proteste. Ma il fatto è che le comunità di colore hanno un pessimo rapporto con la polizia, e questo ovviamente è difficile da capire per la maggior parte della popolazione statunitense, almeno quella bianca, quella che si riconosce come tale. Il modo migliore è che trova anche il movimento Occupy the Hood per difendersi è di conoscere bene le leggi, ma proprio bene, perché poi sono fatte anche per privilegiare i bianchi, e di rinfacciare cioè le leggi a ogni poliziotto che comincia ad abusare. Infatti fanno anche laboratori su questi problemi e sono in contatto con la cosiddetta Gilda degli Avvocati, che sarebbe un'associazione nazionale di avvocati negli Stati Uniti, anche per avere consigli e anche certe volte per darli. Questo però non lo fanno per aiutare i manifestanti o le manifestanti, ma per far capire alla gente che sovente una persona di colore viene arrestata o picchiata dalla polizia, se non anche uccisa, per molto meno di una protesta in pubblico. Magari per il possesso di marijuana, magari solo per sembrare di averne un mazzetto in tasca, ma certe volte soltanto per qualche presunto crimine che non si rileva dopo il fatto dell'arresto, o addirittura l'omicidio. Per esempio Oscar Grant a Oakland recentemente è stato ucciso dalla polizia, e questo era, cioè, Oscar Grant era assolutamente incolpevole di niente, era incensurato. E quindi sì, c'è bisogno di aiutare le manifestanti che subiscono i soprusi della polizia, ma bisogna anche prima ancora sensibilizzare la gente agli enormi problemi di repressione e abusi quotidiani che le comunità di colore sono obbligate a sopportare, storicamente e anche tuttora. In questo l'Occupy the Hood apprende molto dalle esperienze del Black Panther Party, del partito delle Pantere Nere, che dimostrò con almeno in facciata militanza aggressiva di essere tra i gruppi anzi meno violenti negli Stati Uniti, certamente meno del governo degli Stati Uniti stesso, e molti altri gruppi, tra cui coloro che ancora negli anni 60 cercavano di linciare persone di colore, specie afroamericani. Ma invece il partito delle Pantere Nere riuscì a sfamare, a educare tantissima gente, migliaia di gente povera, specialmente afroamericana ovviamente, ed è per questo che venne dichiarata questa organizzazione, il partito delle Pantere Nere, un'organizzazione criminale, violenta, da tipi come J. Edgar Hoover, che all'epoca fu capo dell'FBI. Ci fu una caccia alle Pantere Nere incredibile, cioè c'è tutta una storia che poi, cioè, non mi posso dilungare a raccontare, però vale la pena leggerne attentamente per capire l'esperienza dei movimenti afroamericani nella storia recente negli Stati Uniti. Sono storie veramente paurose, e tuttora ci sono prigionieri e prigioniere politiche e politici che o sono in galera in pratica sono stati montati con, cioè, prove fasulle, e ovviamente Mumia Abu-Jamal ne fa parte, oppure sono scappati, certi vivono a Cuba, certi sono rifugiati addirittura nel Portogallo. Noi, cioè, per continuare con quello che racconta Malik, loro, cioè Occupy the Hood, seguono il modello del Black Panther Party per motivi pratici. Però come fanno le ragazze e i ragazzi, per esempio, a organizzare rivolte a stomaco vuoto? Lo stesso discorso vale per l'educazione. E come ribellarsi a un sistema se non si ha una formazione che consente analisi, una lettura critica delle cose, eccetera. E poi il contenuto delle rivolte capeggiate dalle Pantere Nere e più recentemente da raggruppamenti come MOVE, non erano molto diversi da quelli del, cioè, dalle rivendicazioni correnti dell'Occupy Wall Street, incluso il concetto di occupazione degli spazi. E poi c'è da aggiungere che, per esempio, MOVE è qualcosa veramente di assurdo, di cui tuttora non si ha nessuna possibilità di ricorrere a qualsiasi rimedio, al crimine che è stato commesso contro il gruppo MOVE a Filadelfia. Furono bombardati nel 1985, nel 1985, cioè non tanto tempo fa. Io me lo ricordo nettamente da adolescente, vedere nel notiziario televisivo, mentre vivevo a Boston, il bombardamento tramite elicottero, cioè schianciarono una bomba sul quartier generale di MOVE, con 11 morti, 5 di cui bambini. Cioè, queste sono cose raccapriccianti, ma ovvio che molta gente proprio non ha conoscenza. Quindi le realtà storiche e le organizzazioni di lotta afroamericane hanno tantissimo da insegnare a Occupy Wall Street, che in maggioranza ne sanno veramente poco o niente di tutte queste realtà e queste esperienze storiche di lotta. Ma anche nelle comunità afroamericane stesse si stenta a ricordare queste cose. D'altronde sono delle cose veramente atroci da cercare di ricordare. Anzi, molti traggono lezioni ben diverse, cioè evitiamo di metterci in avanti, a esporci troppo, perché sennò rischiamo veramente grosso di essere addirittura bombardati dal proprio sindaco, come successe a Filadelfia nel 1985. Quindi la domanda da fare, per concludere, non è perché pochi dalla comunità di colore sono coinvolte o coinvolti nel movimento Occupy Wall Street, ma esattamente l'inverso, cioè perché c'è voluto così tanto per le comunità bianche di capire di quale sistema si tratta negli Stati Uniti, di cos'è che devono andare ad affrontare. Vorrei poi continuare, cioè ci sarebbe tantissimo altro da raccontare, incluso il fatto che poi ci raggiunse uno dei cofondatori, Preach Peace, però purtroppo penso che ci dilungherebbe troppo la trasmissione. Allora mi auguro che un altro tempo si possa magari anche includere Preach e sentire anche quello che lui avrebbe da dire, e anzi piacerebbe anche avere la voce di Ife, che è la cofondatrice di Occupy the Hood. Comunque vorrei ringraziarvi tantissimo per il vostro ascolto e spero che questa trasmissione dia un'idea un pochettino più chiara di quello che si sta facendo negli Stati Uniti e dei tanti altri movimenti che esistono, delle voci che sono purtroppo soppresse dai mass media e che con grande difficoltà arrivano in Italia anche nella stampa di sinistra. Non se ne parla molto di queste cose. Quindi tante grazie per l'ascolto e alla prossima.